Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima. Baderek el Asulam, sulla via per la scala. Lezione numero 11. La Kabbalah è uno studio che non ha nulla a che fare con il nostro intelletto terreno. Quindi non cercare di imparare la Kabbalah con la tua testa. Se lo fai, ti stanchi. Quando impari di notte, superi il tuo corpo fisico. È impossibile diventare ricco quando dormi, e questo è anche per lo spirituale. Quando stai nel tuo letto dormendo tutta la notte, il tuo corpo sarà il capo e ogni cosa che impari rimane nella prima elementare. Il corpo significa il desiderio per ricevere. So che sembra illogico, ma devi andare in battaglia con il tuo proprio intelletto terreno se non vuoi che il tuo corpo regni su di te. Noterai che non ti stanchi perché la stanchezza viene attraverso il tuo intelletto. Il tuo intelletto vuole rimanere il capo e non vuole arrendersi al superiore. Più superi il tuo corpo, e ciò significa il desiderio di ricevere, meno potere ottiene. Mai, e intendo mai, andare in discussione con il tuo intelletto, il serpente, perché perderai sempre quella battaglia. Adam aveva perso anche questa battaglia perché aveva cercato di ragionare con il suo intelletto. In ogni generazione, colui che sta discutendo con il suo intelletto è il perdente, sebbene abbia conquistato il mondo. Tieni questo sempre a mente. Il tuo corpo ti consuma e fa che tu ti rassegni in chi e cosa sei. Ma quanti giorni hai in questa vita? L'obiettivo finale nell'apprendimento della Kabbalah è Gadlut. Quando inizi a imparare la Kabbalah, devi essere molto cauto perché non hai ancora forza. Ci sono state molte cose nella tua vita, peccati che hai e avevi fatto, e non c'è niente di sbagliato in ciò se inizi a lavorare su te stesso ora. Nell'intero universo e qui sulla Terra non ci sono due persone che necessitano della stessa correzione. Ognuno ha il suo proprio e unico pacchetto. Quindi fai attenzione, fai sempre meno, ma quello non ti porta all'obiettivo finale. Inizia a temere Hashem, perché questa è una paura costruttiva. Questa paura ti dice: non ricevere egoistico. L'obiettivo finale è che tu ricevi una tale forza, una certezza dall'interno che non c'è niente e nessuno di cui avere paura. Ricevi l'integrità con la vita eterna e nessuno può disturbarla. Quello è l'obiettivo finale. Questo è dove devi lavorare, ma per favore stai attento. Nello spirituale non c'è competizione. Quando senti competizione, allora non sei impegnato con lo spirituale. L'unica competizione è in te stesso. Come posso dare di più? Tutti qui in questo gruppo lavorano come un individuo. Tutti lavorano per se stessi e attraverso questo ci aiutiamo l'un l'altro. In questo paragrafo stiamo discutendo le cinque foglie dure che circondano il giglio. Esse formano il masak, la forza che dà resistenza, per cui la forza che riflette la luce non è ancora presente. Riflettere significa che hai la forza per lasciare entrare qualcosa. E questo è ciò che è scritto, cinque cancelli, eccetera, coppa di risparmio, nel tempo di Gadlut, la grande condizione. Per cui cinque foglie dure sono diventate cinque gvurot, poi sono considerate come cinque cancelli, cancelli che sono aperti per ricevere le cinque luci di misericordia della luce diretta. Allora vengono chiamati risparmi per questa ragione. Poi è chiamata la Nukva. Il nome è sempre in accordo con i punti di forza, nello spirituale e nella vera realtà. Coppa di risparmio o una coppa di benedizione. Perché con il loro potere la Nukva diventa un Kli. C'è sempre l'intenzione di fare un Kli, perché solo in questo modo la luce può entrare. Non pensare se ho la luce, perché quello è possibile solo quando hai il Kli. Il Kli è il più importante, che può contenere la benedizione, che lei è la benedizione, cinque luci di misericordia, come menzionato sopra. La benedizione arriva, ma non la possiamo tenere se non abbiamo una coppa per ricevere. Per favore, nota, mai pensare che lo spirituale è difficile. La comprensione non ha importanza. Sto parlando al tuo essere interiore e tu sei l'essere interiore che reagisce. L'essere esterno vuole capire con l'intelletto e quello ti rende stanco, mentre la Kabbalah non stanca. Io, per esempio, potrei continuare tutta la notte. È sufficiente un piccolo sonnellino. Quando hai bisogno di più, sappi che sei sul sentiero sbagliato. Allora ti consegni alla morte, e la morte è l'obiettivo del tuo corpo. Il corpo vuole farti piacere. Ricorda questo. Questa è la battaglia che il Creatore ha destinato per noi e tutti possono superare. Sono stanco, sono debole. Sono il più indebolito di tutti voi, ma il desiderio per la vita è enorme. La Kabbalah ci dà la vita. Prima avevo chiamato le cinque foglie dure. Nukva aveva solo una sfira, Keter, sopra in Azilut, e nove erano cadute nella Bria. Il prossimo stadio è la Nukva cresce in forza e lei ottiene cinque foglie dure, Masak, la forza di dare resistenza per trattenere la luce quando lei non ha abbastanza forza, perché la luce può solo entrare quando la luce è sufficientemente riflessa. La forza delle cinque foglie dure aumenta e la nukva ottiene la forza per riflettere la luce imminente. Or Hasadim di Zeirampin. L'imminente luce riflessa con cui lei riflette l'Or Hasadim, che è circondata dalle Gvurot, entra nel lato femminile di Zeirampin che lei aveva sollevato. E questo egli lo confronta con i cinque cancelli. Quando Or Din discende, Or Hasadim ascende. La luce imminente entra e in un certo modo questa è la costruzione dei cancelli attraverso dove la luce può entrare, attraverso cui la luce può entrare. Zohar cerca di portarci il sentimento di cosa siano i cancelli. È la forza di Malkut quando lei può riflettere. Nelle cinque foglie dure c'è solo resistenza, c'è forza nel Masak, ma non abbastanza per riflettere. Invece di Ordin, luce di severità, luce riflessa, Or Koser, lo Zohar sta parlando di questi cinque cancelli. È esattamente lo stesso, ma in questo modo lui prova a darci un sentimento di ciò che stiamo imparando. L'albero di vita di Ari, cita lo Zohar, ma usa solo il linguaggio diretto della Kabbalah. Cinque cancelli, perché ora la Nukva è in Gadlut, la grande condizione. Ora lei può riflettere la luce e lasciarla entrare. Allora c'è la possibilità di sperimentare le 10 Sfirot. E nello Zohar questo è confrontato con i cinque cancelli, la luce riflettente come cinque cancelli. Lo vediamo indietro nel servizio al Tempio. Certamente la gente pensa che c'erano animali sacrificati, ma ogni cosa è spirituale. Ma c'era sacrificato un animale sull'altare. Che tipo di animale? È lo stesso di quello che stiamo facendo durante lo studio notturno. Poniamo il corpo sull'altare, ci alziamo nella notte per imparare e puoi vedere questo come se portassimo il nostro animale al tempio e lo sacrifichiamo perché l'animale in noi vuole ricevere. Quello è il nostro corpo. E quello metti sull'altare, la Malkut. Il Tempio, ovviamente, era anche un luogo in Gerusalemme, direttamente dietro il muro occidentale. Lì era l'altare, c'erano tutti i sacrifici, perché quello è il posto sulla terra, anche geografico, che concorda con tutto il sacrificio che era, è e sarà portato per l'intera umanità e non solo per il popolo ebraico. Nel mondo inferiore l'altare è Nukva. La Nukva è sopra nell'Azilut. Le sue 9 Sfirot inferiori possono solo con sforzo sacrificare la discesa. Ogni volta che vinci il desiderio di ricevere per te stesso, deve essere visto come un sacrificio. Nel Tempio c'erano 2 altari, uno per le cose dure, per organi speciali, e c'era un altare per le cose delicate. Jechezkiel aveva scritto enormi profezie sul terzo tempio e Zoar ci dirà passo dopo passo. Quando gli organi di un animale erano deposti sull'altare e spruzzati con vino, erbe speciali e formule speciali, una cremazione trovava posto su un livello inferiore. Poi venne un fuoco travolgente che ogni cosa venne bruciata. Sapevano come farlo, ma ovviamente venne attraverso la devozione della gente e non come reazione su quella carne. Sapevano come arrendersi in modo completo. Aprire te stesso, cioè arrendendosi, e questo lo vediamo anche a Nukvah. Lei aprì i suoi 5 cancelli, Or Kozer. Prima lì deve andare il fumo da sotto a sopra. Prima un fuoco da sopra appare, Chassadim. La luce di Din, la forza pesante, fa cancelli in cui può venire la luce di Chassadim, misericordia, e che la rende dolce. Odori deliziosi per il grande uomo che è il Zeirampin. Possiamo trovare l'altare solo sulla terra, ma come forza concorda con la Nukvah di Azilut. In Azilut possiamo trovare il sistema di controllo di Nukvah e Zeirampin. Nella sua grande condizione, Nukvah porta Din, la severità su in alto, e da ciò è adatta per lasciare entrare Zeirampin, Or Chassadim. Quando c'è una cerimonia sacrificale, tutte le persone si inginocchiavano perché ognuno sentiva la presenza divina. Con il loro intelletto terreno venivano al tempio, volevano il perdono, il sentimento dall'interno per essere intero, Shalem, e per sperimentare l'eternità e non solo miseria e severità. È nelle nostre mani se riceviamo la forza positiva della misericordia. Prima Zeirampin dà 5 Chassadim che entra nei cancelli di Nukvah e poi arriva uno splendore di Kokmah. Senza Kokmah, Nukvah non può avere piacere. È lo stesso per il nostro mondo. Un uomo ha naturalmente un lato femminile e uno maschile in se stesso e deve allevare la forza. Così anche la donna e insieme danno con misericordia un piccolo pezzo di Kokmah. Non il suo Kokmah, ma dalla Binah lui la passa solo attraverso. 5 cancelli, la quarta frase. Cancelli che sono aperti per ricevere le 5 luci di Chassadim, Zeirampin. E l'intera cerimonia del Tempio aveva ogni cosa a che fare con la comunicazione, l'interazione tra l'essere umano e il Creatore, per cui il Creatore non è altro che la forza di Zeirampin. Spetta a noi causare la giusta reazione ed è inevitabile che otterremo una risposta e risparmi. In ogni situazione, ogni volta che dobbiamo superare, io non ti do false speranze o che si potrebbe pensare che può venire da trucchi o qualsiasi altra cosa. Qualche settimana fa un giornalista mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo rilasciare un'intervista per una mostra. Gli ho detto che non rilasciavo interviste. Ma pochi giorni dopo mi telefonò di nuovo e gli dissi di andare sul nostro sito. E di nuovo mi ha chiamato e mi piace quando uno persuade. Non ho rilasciato un'intervista perché tutto quello che voleva sapere lo poteva trovare sul nostro sito. Ma l'ho aiutato un po'. Mi ha chiesto: cosa ne pensi del caso in Israel? C'era un cabalista che aveva preso una somma di denaro per curare qualcuno dal cancro. Qual è la tua opinione? Non leggo più i giornali. Non mi interessa cosa fa una persona in questo mondo. Gli dissi che non aveva niente a che fare con la cabala. Sta a te evitare il cancro. Per ogni cosa che fai devi creare un account. Non è occhio per occhio, ma devi superare te stesso. Non lavorare con le idee di questo tempo. Quando qualcuno lavora a sé, c'erano dei cabalisti che avevano anche un po' di malattie, è diverso. Lo hanno fatto come un sacrificio per le altre persone. Una persona grande, molto giusta, può essere sacrificata per un'altra persona e questo lo vuole fare molto. Guarda ai nostri santi. Dicono sempre i neni, eccomi. Anche Yosef disse eccomi. Perché? Perché quando qualcuno viene a un tale livello non può rifiutare. Qual è il contrario? A volte è meglio dare una vita che chiedere costantemente che tipo di vita è questa. Ma devi lavorare lentamente. Durante la cerimonia di sacrificio vengono nella condizione di Gadlut. La gente veniva al tempio e si sentiva sollevata perché dopo sentiva la presenza divina. Non dobbiamo andare in un tempio. Possiamo sperimentare questo più spesso nella nostra stanzetta sotto la mansarda. Il posto non è importante. Con la giusta intenzione è come se tu fossi nel tempio. Proprio come Nukvah hai aperto i cancelli Or Kozer e da quella luce può entrare. Tutto è nelle nostre mani, ma devi farlo. Non tutti devono seguire lo studio notturno, ma è bene superare il tuo intelletto e almeno una volta alla settimana cerca di alzarti e imparare e vedrai che ti darà la salvezza. Prima la Nukvah era solo una sfira circondata da 5 punti di forza che non erano ancora svegli. Ora confrontiamo la Nukvah con una coppa e le 5 dita con Or Kozer. Nella coppa entra la luce Hasadim. Tutto proviene dall'Azilut. Attraverso Yesod di Zerampin va alla Nukvah. Lo Yesod di una persona entra nell'organo femminile. Quando lei è capace di ricevere Gadlut, allora lei può passarlo attraverso tutti i mondi, a Briah, Yetzirah, Asiyah e alla persona che sta vivendo lì. L'intero significato di questo è che va alla creazione e la creazione è l'essere umano. Malkut riceve e lei dà a noi. Naturalmente ci saranno domande. Quando ogni cosa è da Malkut per darla a noi, perché non sperimentiamo? Perché non sentiamo che lei ci sta dando? Perché non abbiamo le stesse qualità come le ha lei. Vogliamo solo ricevere per noi stessi e quello lo rende impossibile. Questa è la legge. Puoi credermi o no, quando c'è una ricezione per te stesso, è ritenuto un fallimento. Puoi confrontarlo con un buco in te. Tutta la benedizione viene a te, ma passa subito attraverso di te e tu non hai sentito nulla. Quando la Nukvah è capace di allevare le cinque Gvurot, cinque dita formano i cinque cancelli. Puoi confrontare questo con una coppa che sta sulle cinque dita. Queste cinque dita tengono la coppa dritta, così lì può esserci una ricezione. Attraverso questa immagine puoi ottenere un sentimento di cosa è tutto. Nell'albero di vita è scritto assolutamente diverso. Impareremo passo dopo passo. L'albero di vita è molto superiore dello Zohar. Lo Zohar è come una trasmissione tra il superiore e l'inferiore, e l'albero di vita è pura luce. L'albero di vita proviene anche dallo Zohar. È stato dato all'Ari dall'alto, ha potuto vedere la luce, il sistema operativo, ed estrarlo, mentre vediamo nello Zohar ogni tipo di cose come il giglio, eccetera. Dobbiamo lavorare. Non c'è niente di libero in questo mondo. La persona intellettuale dice che è complicato, non vuole lavorare a se stesso, lui piuttosto prende una pillola. Mi sono fermato a dare consigli alle persone, volevano darmi così tanti soldi se lasciavo accadere miracoli. E quello non ha assolutamente nulla a che fare con la Kabbalah. C'è scritto: non è a voce alta di aiutare qualcuno che non vale la pena di essere aiutato. Quando qualcuno ha un modo sbagliato di vivere e tu lo stai aiutando e glielo dici una volta, due, tre, due volte, tre volte, allora devi lasciarlo andare, così lui può subire la miseria e quello lo aiuterà. Invece di vieni con me, perché in questo modo stai corrompendo il mondo. Quando qualcuno vuole benedirti in una chiesa o in una sinagoga, devi fuggire via. È tutto un pensare bramoso e ti rende solo debole. Puoi fare una confessione a qualcuno che non è corretto come te? Solo al Creatore puoi fare una confessione. Quando lo fai per una persona, neghi la conduzione del Creatore. Riceverai una punizione dal tuo atteggiamento sbagliato. Se credi che un amuleto o l'acqua possa essere sacra, che possa essere di aiuto, ti sbagli. Allora sei ancora un bambino. Anche nella Nukvah si può crescere solo in accordo ai punti di forza. In ogni nuova situazione siamo sotto le spine. Non è difficile, ma devi imparare ad arrenderti. Qui è dove devi occuparti. Il tuo intelletto ti rende stanco. Ovviamente c'è una limitazione. Sei dentro la tua pelle e quello ti fa sentire salvo. Cerca di conquistare il tuo intelletto. Quello è il nemico numero uno. È il tuo nemico perché l'intelletto è difficile da superare. Nel momento in cui lo hai conquistato, ti aiuterà. Il tuo intelletto è un piccolo meccanismo che può solo aiutarti nello sforzo per il superiore e non di più. Perché hai ancora una mancanza, l'intelletto ti governa. Ha per compensare quello che ti manca dentro. Non lavori a te stesso, non vuoi vedere la realtà. E poi l'intelletto prende il controllo del sistema. Ad esempio, vai a una festa con tua moglie e lei sta parlando con qualcuno e tu stai bevendo un drink dopo l'altro e ti ubriachi. Cosa dice tua moglie? Vai sul sedile del passeggero, guido io. E questo è quello che stai facendo anche nella vita reale. Lasci al tuo lato femminile l'intelletto alla guida. Molti di noi pensano che l'intelletto sia del lato maschile, ma hanno assolutamente sbagliato. Nei tuoi desideri c'è la tua forza. C'è il 98% della nostra forza e questa enorme creatività l'abbiamo lasciata libera. L'intelletto è buono per 1 o 2%. Tutti i gadget al giorno d'oggi, cellulari, spazio, eccetera, molto bello, ma è solo buono per questi 2%. E il 98% è libero perché non vuoi che sia coinvolto con l'Eterno. E vedi qui il numero dei Sfirot, che ci sono due aspetti, o è il numero 10, di cui 5 di loro sono principi come menzionato sopra, o possono essere nel numero di 13, come sono le 13 qualità di misericordia. Ovviamente sempre 5 o 10, ma c'è anche qualcosa di 13, come le 13 qualità di misericordia. E la differenza tra loro, tra 10 e 13, con il numero 10, ci impara sui Sfirot, Zon, Zeirampin e Nukvach, che hanno solo Or Hasadim in loro stessi. E poi parlano di 10 Sfirot. Riguarda tutto il come e cosa, e non il perché. Ti ricordi ancora? E il numero 13 ci impara sui Mokin. Mokin è come un tipo di luce dentro lo Zeirampin e Malkut. E quando è superiore in Binah e Kokmah, allora parliamo di luce. Quando è inferiore in Zeirampin e Malkut, parliamo di Mokin. Moach è cervello. Nell'uomo anche il cervello è superiore. Tutto viene dal cervello, ma come lo usiamo, quella è un'altra storia. Quando parliamo del 13, parliamo della Gadlut, per cui non solo Or Hasadim è ricevuto, ma anche una scintilla di Kokmach, e che porta integrità. Non solo misericordia o solo Kokmach, il lato sinistro, non possiamo sperimentare il puro Kokmach. Quando stiamo facendo la linea nel mezzo, e lo Zohar ci insegnerà come, una scintilla di Kokhmah è in Or Hasadim, perché quando arriva a Zeirampin e alla Nukvach, allora c'è già una luce in essa. Nel superiore, Keter e Kokhmah, c'è il vero Kokmach, perché il superiore può comprendere di più. Ad un bambino fai la limonata diluita con acqua, non la dai al bambino in forma concentrata. Noi, come umanità, dobbiamo anche imparare a preferire una scintilla di kokmah sopra il kokmah pesante, che ci darà una sbornia. Non è fatto nel sistema che riceviamo nella forma pura. Impareremo di cosa si tratta e poi sapremo come reagire. Ieri, durante la lezione notturna di cui stavamo parlando, era sera, era mattina, un giorno. Puoi trovare l'intera Kabbalah in questa frase. L'oscurità è una parte strutturale della luce. Entrambi fanno un giorno. Questo una persona deve imparare con il cuore. Tutte le comprensioni sono in questo modo. Prima c'è l'oscurità e poi diventa luce. Non aver paura di deprimerti, non fuggire per uno di quei due punti di forza. Solo tu puoi cambiare te stesso. Con uno splendore di Kokhmah, quello è ricevuto da Zon. Cosa sta bevendo in modo kosher e che cosa sta bevendo in un modo egoistico e sciocco? Quando vai da qualche parte e ti stanno dando whisky e biscotti, come gestisci questo? Quando prima prendi un paio di whisky, prendi Or Kokhmah puro, che ti darà una sbornia. Quindi, qual è il modo migliore per farlo? Prima prendi il biscotto e lo inzuppi nel whisky, e poi mangi il biscotto. Il cibo va bene per il bere. Il cibo è come Or Hasadim, luce di misericordia, e qui ci sono gocce di alcol, Or Kokhmah, una scintilla di Kokhmah. Quando bevi alcolici, bevi durante la cena, qualunque sia la tua cultura. Questo è secondo le leggi dell'universo. Se agisci in un altro modo, prima prendi Or Choser e in seguito prendi Or Chassadim. Non è il modo giusto. Devono andare sempre insieme. Riguarda tutto il principio e non la cultura. Non prendere la luce immediatamente. Mangia e l'effetto collaterale è il bere. Nukvach riceve solo una scintilla di Kokhmah. E noi, come un prodotto di Zeranpin e Nukvach, non siamo capaci di ricevere il Kokhmah puro. Se lo facciamo diversamente, poi ci incamminiamo nelle orme di Adam e di Cain e Abele, attirando la luce dall'alto verso il basso. Questo può solo succedere senza una sbornia, quando sei nella linea di mezzo in cui il chassadim, il biscotto, è inzuppato nell'alcol. Quando hai più forza, puoi inzuppare un po' di più il biscotto. Mangiare è superiore che bere. E poi abbiamo Yayin Mesameach, vino che porta piacere. Yayin Meshacher è il vino che ti fa ubriacare. Quando si sta lavorando con lo spirituale, non è adatto bere. Ovviamente bere è sociale e piacevole, ma c'è sempre meno bisogno di alcol. Il bisogno di alcol viene da tutte le situazioni eccessive, quando non hai il controllo su una situazione e ora vuoi rilassarti. Il tuo corpo dice bevi qualcosa, perché poi diventi insonnolito e stanco. E l'intero scopo è che non sentiamo alcuna stanchezza. che superiamo il nostro corpo. Questo è dato a chiunque, ognuno che è seduto qui, ha il potenziale per liberarsi dalla stanchezza. Ovviamente devi fare un po' di lavoro fisico e poi hai bisogno di un breve riposo. Ma quando qualcuno sa come praticare nel suo lavoro, c'erano imbianchini al lavoro e uno di loro, un giovanetto dipinto con molto potere, come se lui stesse combattendo con una spada, fumava sigarette e urlava mentre il suo collega più anziano dipingeva come se fosse Rembrandt. Non si stancava. Quando sei stanco cedi verso le cattive inclinazioni. Ricorda questo. Un essere umano non è fatto per essere stanco. Quando lavori in una fabbrica, ovviamente, vogliono esplorarti, ma non essere frettoloso. Vogliono sfruttarti, ma non essere frettoloso. Ogni momento in cui sei di fretta, la cattiva inclinazione ti influenza, perché l'essere umano non è fatto per essere stanco. Attraverso la Kabbalah inizierai a sentire la forza interiore e quello ti rende meno stanco. Puoi fare sempre di più e riceverai più chiarezza. E questo argomento sui numeri 10 e 13 sarà spiegato in Be'emarot HaSulam. Alla pagina seguente, sotto, inizia un commento extra di Sulam, che è chiamato Be'emarot HaSulam, visione di Sulam. Lì ci insegnerà i principi della Kabbalah. Questi principi sono i più alti, superiori alla matematica e fisica, persino superiori a quelli di Einstein e di altri vincitori del premio Nobel. Useranno, inventeranno fino alla venuta del Messia. E allo stesso tempo è semplice. Come è possibile? Per la Kabbalah hai più sentimento. Non c'è nulla da ricordare nello Zohar. Il compito è renderti ricettivo e quello è tutto e poi non sarai mai stanco. Questa è l'unica cosa che devi ricordare. Quando sei stanco, i pensieri di adulterio, di desideri esagerati verranno a te. Tu sei il capo di tutti questi pensieri? Certo che no, essi vengono e vanno. La maggior parte li riconosci direttamente, non metterli dentro o non reagire a loro. Allora non diventerai stanco. È semplice, ma devi stare attento. Passo dopo passo, un sistema si sta costruendo in te. E le 13 qualità di misericordia ti circoncideranno e non diranno ad alta voce che sarai succhiato. Cosa sta succhiando? Stai guardando fuori dalla finestra. La tua bocca si apre e tu continui a guardare fuori dalla finestra. Oppure stai guardando la televisione e qualcosa attira la tua attenzione. Sappi che tutto in televisione è lì per prenderti. Assolutamente. Ogni cosa è puntato su un punto per attirare la tua attenzione anche quando stai camminando per strada. Devi sempre stare attento, essere consapevole, non lasciarti succhiare. Tutto dipende da te. Ed egli, lo Zohar, dice: la coppa di benedizione ci impara su l'attrazione di 5 chassadim dentro le 5 gvurot di lei, dalla nukvah come menzionato sopra. L'ultima volta abbiamo detto che la propria forza di Nukvach è Gvurot Din. Ecco perché lei ha bisogno di Chassadim, misericordia, lei ha bisogno di Zerampin per addolcire i suoi Gvurot, che li rende sopportabili per lei a ricevere la luce. Ed egli dice la coppa di Berakha, benedizioni, rappresenta la coppa con le benedizioni. Quello che viene nella coppa, il vino, ci dà benedizione, Chassadim. Quello ci dà Berakha. Questo non è tutto, è solo il primo grado di Gadlut, la grande condizione. C'è già la ricezione di Chassadim. Nukvach ha già 5 foglie dure. Lei ha la forza di riflettere la luce. Ecco perché tutti vogliono ricevere benedizioni che significano che uno non è nella miseria. Ha il sentimento, dall'alto, se c'è qualche sollievo. Nel testo originale, esso è scritto in grassetto, che è il testo dello Zohar stesso, e prosegue su la coppa di benedizione nel precedente paragrafo. Quando ho una coppa appoggiata alle mie 5 dita, le mie 5 dita sono Gvurot, la reazione di Nukvach, e nella coppa, che è la Nukvach, lì entra la luce Chassadim, e che è chiamata Berakha, benedizione. È chiamata benedizione perché dà la vita. Lei non rimane nella condizione di severità, ossia solo nel numero 10. 5 dita sono 5 Gvurot, che riflettono i punti di forza, e qui arrivano le corrispondenti 5 luci di Chassadim da Zeirampin. Ecco perché sono solo 10 Sfirot. Quando stiamo parlando di 10 Sfirot, significa che c'è solo la luce di Chassadim, e quando stiamo parlando delle 13 qualità di misericordia, parliamo di Gadlut, per cui non solo i Chassadim entrano, ma anche la Nukvach discende e i Chassadim ricevono Or Kochmach. Quella è una condizione superiore in cui tutte le 13 qualità di Rachamim, misericordia, la circondano. La circondano perché non può ancora riceverli in se stessa. Lei è già stabile, ma deve essere anche raccolto. Un nato nella mano vale 2 nella boscaglia. È meglio ricevere una sfirà che ter che niente. Questa nata la metti in una gabbia nel giardino e te ne prendi cura, e successivamente altri uccelli la visiteranno, e lei racconta come si sente meravigliosa, e lentamente una dopo l'altra arriveranno. Quindi vedi, devi iniziare con uno. Queste sono K-G-T-N-H. Quando parliamo di 5 sfirot nella testa, Rosh, stiamo parlando di Keter, Kokmah, Binah, Zerampin e Malkut. Quando parliamo di Chassadim, del corpo dei 10 sfirot, o di qualcosa che può solo ricevere Chassadim, stiamo parlando di Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach e Hod. Quando c'è solo Chassadim, poi Keter, Kokmach e Binach, si abbassano ed essi diventano Chesed, Gvurach e Tiferet. Netzach è Zerampin e Od è Malkut. Come menzionato sopra e non più di 10 o 5 Sfirot. Di Chassadim parliamo sempre di 5, ossia in contrasto con il numero 13. Tutto è 10 e ora improvvisamente dice 13. E la ragione è che la Nukvach non è capace. Chassadim senza Kokmach non è sufficiente, non dà compimento. Perché lei riceve solo 5 o 10? Per ricevere Kokmach nel segreto di 13. Lei non ha ancora la forza. Solo quando Nukvach ha 13 anni può ricevere Kokmach. Ripeto, impara il come e cosa e non il perché. Le risposte sul perché, le domande, le riceverai dall'alto. Il tuo perché, le tue domande, sono i tuoi kelim. Non il tuo intelletto deve chiedere per il perché delle domande, ma deve provenire dalla tua incapacità di sperimentare. Questo è il tuo perché, senza alcuna definizione. Dall'interno ci sono interi perché, e tutti questi perché otterranno una risposta, ma non cercare di capire con il tuo intelletto. Il tuo intelletto ha solo una piccola capacità, il 2% per prendersi cura di noi, che non bruciamo le nostre dita o saltiamo fuori dalla finestra, eccetera. Tutti gli scienziati usano solo questo 2%. Naturalmente è dato dall'alto, ma non è la salvezza. Quando diciamo che qualcosa non è adatto, allora intendiamo che non ha ancora abbastanza forza. Ogni persona è capace di ricevere la piena salvezza a prescindere dalla sua origine o cultura, a prescindere dal suo intelletto dato alla sua nascita. Tutti possono arrivare alla realizzazione, solo che lui non è ancora adatto perché non ha lavorato su se stesso. Lei non è adatta per ricevere Kokmach, Kokmach nel senso di 13, senza il rivestimento di Kokmach in Chassadim, senza il penetrare di Kokmach nel Chassadim. Come può penetrare? Kokmach è una luce più pesante di Chassadim. Kokmach viene da Keter, Kokmach, Binach è più sottile. E Chassadim è luce di Zerampin. Kokmach entra sempre perché ogni cosa che è superiore può penetrare l'inferiore. Quando il Kokmach entra in lei, lentamente, a seconda della sua forza, lei sperimenta le 13 qualità di misericordia dal Creatore. Tutto è nelle nostre mani per sperimentare l'Eterno, l'amore del Creatore, e non per essere stanchi, eccetera. Questo è possibile solo quando ci rendiamo ricettivi, che prima riceviamo Chassadim, e ciò significa benedizione. E poi puoi venire a Gadlut, la grande condizione in cui i Chassadim possono ricevere Kokmach. Non puro Kokmach proprio come una persona che beve vodka pura, butta giù qualche vodka e si siede dritto. Ciò non è dal suo lavoro interiore, ma per quello che era nel suo bicchiere. In gioventù andavo alle feste e dopo 37 minuti me ne andavo. Sapevo che l'accoglienza era al massimo e che si sarebbero abbracciati, ma dopo 3 minuti sarebbe cambiato e poi ci sarebbe stata una rissa. Prova a fare questo in ogni situazione. Sappi che se ricevi più di quello che puoi gestire, cambierà nel male, nell'esperienza dei dinim e di altre cose. Questo è il momento di lasciare e non ascoltare quello che gli altri vogliono dirti, la loro miseria, eccetera. Fuggi via. Lascia che gli altri lo facciano. Ci sono persone che provano piacere ad ascoltare la sofferenza di altre persone. Riguarda il tempo o il partner o qualsiasi altra cosa. È una sequenza infinita. È nel nostro carattere. C'è una mancanza e l'argomento non importa perché una persona può parlare di qualsiasi cosa. Dall'interno non ci sono ancora kelim per la benedizione, per ricevere i chassadim. E devi cercare i chassadim e come conseguenza della tua ricerca arriverà un piccolo kochmach. E nella grande condizione vedrai che non c'è stanchezza. Solo allora è quel scintillare di kochmach che ti entra e rompe la resistenza nel tuo corpo. Guarda lo studio notturno. Non voglio supplicare per lo studio notturno. Ognuno deve fare la sua propria decisione. Ma lo scopo dello studio notturno è rompere le leggi di gravità e non distruggerle, ma sfondarle perché le leggi di gravità e il sentimento fisico sono entrambi dal Creatore. Dobbiamo alzarci nella notte per sfondare la gravità. Ogni nuova mattina ancora e ancora, e poi arrivi a una svolta e un altro progresso, e poi arriva una mattina e ti alzi alle 3 ballando perché ce l'hai fatta. E dopo 2 ore di studio tu senti grado dopo grado la luce Kochmach ti sta penetrando, poi sei nel Gadlut e vai al tuo lavoro o vai a casa e ti sdrai per qualche minuto ed è sufficiente. C'è un piccolo arrendersi e fai un credito di ciò che è dato a te dall'alto durante la notte. Quando non segui lo studio notturno, prova a imparare un'ora qualcosa della Kabbalah pratica e un'ora Zohar, ma devi alzarti durante quell'ora. L'intero significato è che tu sfondi le leggi di gravità in te stesso, perché quelle esistono. Hai la forza per sfondare e poi ricevi Chassadim con una scintilla di Kochmach. E lentamente rimarrà con te. Puoi svegliarlo in ogni momento, proprio come se tu facessi una telefonata. Sentirai dove è dentro di te, puoi chiamarlo in ogni momento. Il come io non te lo insegno, perché devi sentirlo da te stesso, che è la tua relazione personale con il Creatore. C'è un solo Creatore, ma ognuno ha la sua propria esperienza e relazione con il Creatore. Non posso dirti fai come ho fatto io, sarebbe sciocco. Non ci sono due stesse persone e ognuno deve fare la sua propria correzione. Non ti dico una cosa di mio, non ha senso. Ti do solo lo Zohar, il sistema operativo, e devi praticarlo. Puoi immaginare come è tutto personale? Ari ci dice che non c'è un giorno uguale. La correzione che hai fatto oggi è per oggi e domani devi farne un'altra. La correzione che faccio non è mai la stessa di una correzione che fai. Non c'è un giusto che sembra un altro giusto, nessun santo che sembra un altro santo. Così, quando ti attacchi a un santo o a un rabbino, non devi mai attaccarti a nessuno. Si può naturalmente avere un po' di rispetto per quello che facciamo, per il Creatore, ma mai seguirmi. Non c'è una parola da o su me stesso. Solo tu e non un gruppo. Questa è l'unica cosa che devi ricordare. Tutte le altre cose sono commedie. E da quel punto uno deve attirare la benedizione. Una benedizione non appare come un lampo in un cielo limpido. Solo attraverso il tuo lavoro interiore puoi attirare la benedizione, chassadim, come preparazione per la grande condizione. Cioè i cinque chassadim, che è la benedizione, attraverso la via delle nostre cinque dita. Quando qualcuno benedice il vino, deve mettere la coppa alle sue cinque dita e pensare di cosa tratta il tutto. In quel momento attira i chassadim e fa uno sforzo per sollevare i cinque gvurot. E allora chassadim può venire nella coppa. I chassadim è come vino diluito, e quando il kokmach è anche lì, diventa più forte. Pertanto è necessario prima attirare su la benedizione. Sono cinque chassadim solo da cinque dita. Questi cinque gvurot sono le cinque dita. Perché abbiamo bisogno della benedizione? Perché sentiamo dall'interno din severità, e non è il senso che stiamo nella severità, il quale non è la vera realtà. Ogni volta che prendiamo in considerazione devo fare questo, devo fare quello, è la severità che noi portiamo, come un sacrificio in alto, e chiedere aiuto, e poi arriverà chassadim. La nostra severità sarà addolcita, guarita. In altre parole, portiamo un po' di balsamo nelle nostre ferite, e ciò lo rende sopportabile e dà vita. E solo allora lei è, Nukvach, capace di ricevere dal 13. Prima riceve dai 10, che sono 5 chassadim. La misericordia è solo una preparazione. Pertanto non è stato sufficiente per la nazione prescelta supplicare per la misericordia e annunciare che questo è il principio più importante del Creatore, perché la misericordia non sarà mai l'obiettivo della creazione e il servizio al Creatore. Naturalmente questo era necessario nella storia, non più per il popolo ebraico di annunciare la misericordia, ma ora in questo tempo siamo pronti a vedere che ci sono due punti di forza nell'universo e sono entrambi strutturali, e ora siamo pronti a ricevere un po' di Chochmah e non solo misericordia, perché l'essere umano non può vivere solo con la misericordia. Deve esserci uno splendore di Chochmah anche in noi. Ciò fa che una persona possa venire a compimento.